Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon che ritorna sulla trasmissione della scorsa settimana completando quel ragionamento, quella chiacchierata che io e Morena abbiamo svolto non qui in studio ma nella sala dell'archivio Dina Rinaldi, l'archivio cartaceo con tutta la memoria del pioniere, i lavori su Rodari e di Rodari, è una vasta collezione di fumetti prima e dopo l'avvento del pioniere. Torniamo sull'argomento, dunque, completando un po' lo sguardo su questa memoria cartacea di tanta storia illustrata non solo d'Italia, ricordando che è materiale anche consultabile qui in loco, telefonando in radio 051 34 6458 chiedendo di Alfredo e fissando un appuntamento dalle 11 all'1, dal lunedì al venerdì. Dopo lo stacchetto musicale riprendiamo questa chiacchierata. Abbiamo del 49 un numero del giornalino che è proprio di minore valore, che però è quello che veniva diffuso largamente all'interno delle parrocchie e quindi un fumetto molto educativo in qualche modo nell'ambito clericale. Per tornare all'archivio, è di Gianni Rodari ed è Turisti in Cina. Turisti in Cina lo ha donato Luciana Romoli, che è stata collaboratrice di Rodari proprio nei primi anni del Pioniere. E questo è un libro particolare e anche direi abbastanza raro, e vorrei leggere alcune parti dell'introduzione curata proprio da Gianni Rodari, che dice: a chi mi chiedeva dunque di scegliere tra simpatia e perplessità, potevo solo rispondere in definitiva che mi era impossibile. Anche oggi penso di non conoscere altra risposta. Davanti a questa realtà, alla sua complessità, ai suoi punti oscuri e ai rapporti con cui sta ad altre realtà, diventa terribilmente difficile quello schierarsi. Da un lato si ha timore di lasciarsi trasportare da entusiasmi ingenui, dall'altro si ha certezza di non disporre di tutti i dati necessari per esprimere giudizi. Ecco, questo è i racconti del viaggio in Cina che ha fatto Rodari e che in maniera molto equilibrata lui ha raccontato in questi articoli che sono usciti su Paese Sera, di cui lui fu anche giornalista, e non ha dato appunto giudizi. Quindi ha fatto un lavoro di descrizione. Ricordiamo che oltre al materiale cartaceo, l'archivio Rinaldi, anche materiale che è poi online consultabile a richiesta, e parlando del Rodari giornalista abbiamo tutti gli articoli dove lui si firmava allo spazio Benelux che compariva sulla loro pagina sera, che poi ha pubblicato anche questo Turisti in Cina. Un altro testo è di Dina Rinaldi, Pionieri nel paese del socialismo. Dina Rinaldi appunto racconta come i pionieri sono nati poi in Unione Sovietica e l'esperienza che lì hanno fatto, e da quell'esperienza si può mettere anche a confronto l'esperienza dei pionieri in Italia. Anche questo è un libro decisamente interessante. Tra l'altro c'è una disputa tra gli storici e i ricercatori quanto debba l'associazione pionieri italiani all'Unione Sovietica, dove i pionieri vennero inventati, o quanto sia un fenomeno autonomo italiano legato alla resistenza e al dopoguerra italiano, avendo tagliato ampiamente il cordone ombelicale con la madre patria del solo avvenire, cioè l'Unione Sovietica stessa. Oh! Siepe a fronte abbiamo le altre pubblicazioni, quelle a venire. Nel 1965 compare in Italia Linus, pubblicato appunto a Milano per la prima volta, con persone come Del Buono, Umberto Eco, sono questi giovani intellettuali emergenti. Abbiamo anche il numero del 65, ma vorrei segnalare invece questo Linus in rosso, né più né meno del 68, quindi non con Ben D, ma Linus. Anche a lui ci sono fumetti storici come Jeff Hawke, Dick Tracy e altri. Sempre scartabellando nei numeri di Linus, siamo nel 68, troviamo per esempio un fumetto assai curioso, perché è una strip di Max Groeninger, quella che noi conosciamo meglio per i Simpson, Disincanto, i Futurama, che invece allora, giovanissimo autore, ha un tratto un po' quasi alla Copì, come era poi in qualche modo dominante in quegli anni. Se guardo anche il Rossini, ho scelto un Charlie, perché drammaticamente Charlie Hebdo è, ahimè, nella storia recente per le stragi jihadiste. Invece qui ne ho un numero del 73 con molte di quelle firme che poi vennero assassinate dalla furia dell'integralismo islamico. Capolavoro, andando verso le graphic novels, Maus di Art Spiegelman, questo mirabile fumetto che parla dei lager nazisti, dove appunto per riuscire a parlare sia della tragedia ma anche in maniera leggibile, non troppo soffocante, si usa la metafora di dare degli abiti da animali ai carcerieri e ai carcerati, tra topi, rane, insomma, ed è un fumetto che ha fatto chiaramente epoca. Poi le tante graphic novel, Zero Calcare ovviamente presente, ma anche per esempio quella a carattere sociale come Nicola, che parla di resistenza precaria, quindi San Precario in strips, oppure un tema con cui siamo molto legati, la resistenza, anche perché il Pioniere era molto legato alla resistenza. E allora, anche con un rapporto fecondo con l'archivio Nicolai di Firenze, tra gli altri segnalo Tosca, Nel cerchio dove c'è Savio il respiro, che è messo in fumetti una storia vera legata alla resistenza. Oh. Sì, ricordiamo che c'è tutto un filone di fumetti resistenziali molto interessanti che hanno accompagnato questi decenni e che alcuni di questi appunto si possono trovare anche nel nostro archivio. Sì, si può fare tranquillamente un parallelismo tra grandissime differenze, ma una sorta di tensione che rimane costante tra il fumetto militanti di ieri, il pioniere per l'appunto, e i fumetti militanti oggi nel sociale, tantissimi graphic novel, passando poi per i mostri di pazienza che sono rappresentati, o tutta la collezione satirica del male che abbiamo completa, e quindi raccogliamo anche testi recenti, naturalmente pubblicazioni che stanno uscendo, soprattutto che sono usciti nell'anno rodariano, che hanno a che fare con Gianni Rodari e che trattano del pioniere. Quindi tra questi testi ne abbiamo raccolti molti, ancora ne stiamo raccogliendo. Abbiamo anche tutti i libri pubblicati da 100 anni di Rodari e Naudi Ragazzi, e continuiamo appunto a raccogliere materiale. Tra gli altri materiali presenti in archivio annoveriamo anche Rinascita, presente dal 47 fino alla sua chiusura negli anni 90. Rinascita era, sappiamo, la rivista del Partito Comunista Italiano che indagava e discuteva su tutto, e nelle sue pagine finali anche molto di cultura e pedagogia, quindi è un ottimo strumento anche per leggere dall'ottica proprio del partito organizzato le vicende del pioniere, tutte le altre esperienze di aggregazione giovanile nella società, ma anche nella scuola. Presente sono anche volumi che riguardano la storia politica degli anni 50 ed anche altre riviste, in cui numeri di Pattuglia, Avanguardia, insomma tutto ciò che si muoveva nel dibattito nella sinistra italiana degli anni 50, in particolare con riferimento all'educazione dei giovani, perché allora c'era una grandissima attenzione. Non è come oggi che teniamo aperti i centri commerciali e chiudiamo le scuole. Allora nella sinistra l'educazione dei ragazzi era uno dei punti più importanti, su questo c'erano anche dei dibattiti a calar bianco molto accesi, come quelli che avvennero famosi sul fumetto, tra contrari e favorevoli, ma che dimostravano attenzione su questo problema. Abbiamo anche appunto tutta una serie di libri sulla pedagogia e di pedagogisti, che anche questi potete trovarli qui. Ricordare, ricordare come un po' morire, tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi. E scordare più difficile. Ora sai che è più difficile se vuoi ricominciare. Ricordare, ricordare come un tuffo in fondo al mare. Ricordare, ricordare quel che c'è da cancellare. E scordare, e scordare, e che perdi cose care. E scordare, e scordare, finiranno gioie rare. E scordare, e scordare, e che perdi cose care. Ricordare, ricordare come un po' morire, tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi. E scordare più difficile. Ora sai che è più difficile se vuoi ricominciare. Ricordare, Ricordare, ricordare come un tuffo in fondo al mare. Ricordare, ricordare quel che c'è da cancellare. E scordare e che per le cose care. E scordare finiranno gioie rare. Ricordare, ricordare. Abbiamo pensato di targare musicalmente questa chiacchierata su Archivio di Dino Rinaldi con un brano di Ennio Morricone, Remembering, ovvero ricordare, la colonna sonora di una pura formalità. E sempre per il capitolo ricordi, torniamo a Luciano Sita, pioniere al tempo di Carlo Pagliarini, quindi già negli anni 50, ragazzino, impegnato in questa attività di aggregazione di ragazzi, e continuiamo a seguire, come la volta scorsa, i suoi pensieri di un tempo che fu, ma che forse ci vorrebbe ancora adesso. Combinavamo di tutti i colori, pur di stare assieme, perché quello era il bello di questa esperienza, stare assieme, parlare. E io ricordo che quando facemmo il tesseramento del 56, c'era nella tessera dei pionieri, c'erano i comandamenti: merita di essere letto perché è un esempio di educazione civica, laica, che però per ragazzi di 12-14 anni era molto importante. Prometto di essere leale e rispettare la parola data, di studiare con amore, di aiutare la mia famiglia, di amare il lavoro e i lavoratori, amare la patria, la pace, i popoli di tutta la terra, amare la natura, rispettare gli animali e le piante, aiutare i bambini, i vecchi e i sofferenti, superare con coraggio ogni difficoltà e portare ovunque serenità e gioia. E tenete presente che queste parole, torno a ripetere, per dei ragazzi, entravano nella mente e venivano applicate, c'era una gara ad applicarle. E per quanto riguarda la mia esperienza, devo dire che sono principi che mi hanno guidato nella vita, perché adesso sarebbero di grandissima utilità, di grande modernità. E devo dire che il gusto di stare assieme, la lealtà, la capacità di ascoltare, di non essere soli ma di creare organizzazione, è la cultura che io ho appreso da questa esperienza dei pionieri, che è stata un'esperienza meravigliosa e mi ha seguito in tutta la vita, e devo dire che per me è indimenticabile. I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra. Sono tanti bambini che cercano la mano, una mente predisposta per andare lontano, la voglia di cambiare che non trova la pace, un mare in una diga, un uomo messo in croce. Sono i giorni dove il popolo non alza la voce, sono tutte le paure che hai, i nostri anni e le loro canzoni, le teorie e le contraddizioni. Dove sarai ora che sei lui? Amore grande quanto tutto quello che c'è. I nostri anni sono un punto di domanda invecchiato, il presente che va avanti ma mirando il passato, la mancanza di fede da parte di un prete, un quadro senza il suo autore appeso ad una parete. Sono i nostri ricordi, belli o brutti lo stesso, sono tutto il percorso che ci hanno concesso. I nostri anni, i nostri passi in avanti, i nostri sogni sempre troppo distanti. Dove sarai ora che sei lontana da me? Amore mio grandissimo, amore grande quanto tutto quello. quindi parliamo di una graphic novel reperibile ovviamente in libreria, 24/7, uscito per Bao Publishing, ed è un survival horror dal ritmo coinvolgente, fatto di incastri narrativi e ingegnosi, firmato da Nove, che naturalmente ce la viene presentata dalla nostra Rachele Coparoni. Sono in collegamento con Nova per parlare del suo nuovo fumetto edito per Bao Publishing 24/7. Buon pomeriggio Nova, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao! Allora Nova, partiamo un po' dal titolo di questo fumetto, che sembra inizialmente enigmatico, ma in realtà ci spiega sin da subito il luogo in cui poi si svolge il fumetto, giusto? Sì, è un fumetto ambientato in un supermercato e 24/7 ovviamente indica l'orario di apertura di un esercizio che è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Con questo fumetto ti sei approcciata a un nuovo genere, diverso dal precedente fumetto che avevi scritto, sempre per la Bao, Stelle o Sparo. Questo nuovo genere è il survival horror. Com'è stato approcciarcisi e come mai l'hai scelto? Allora, in realtà quello più fuori dai miei canoni è stato proprio il primo libro, che era un libro un po' più introspettivo, che però ci tenevo comunque a fare, e questo secondo libro, più horror, in realtà è più nelle mie corde perché sono una grande fan del genere e quindi mi sono trovata, diciamo, più a mio agio a scrivere questo rispetto all'altro magari. Una caratteristica dei tuoi fumetti è l'ironia, almeno secondo me. Quanto conta appunto l'ironia nella lettura di questo fumetto, nonostante sia comunque appunto un genere anche horror? Tantissimo, ho voluto che fosse sì abbastanza efferato, però ci tenevo a farlo grottesco e godibile. Penso che in fondo sia un fumetto simpatico da leggere, ci tenevo particolarmente a renderlo divertente, ecco, nonostante la tematica. E vogliamo raccontare un po' così, senza ovviamente dare troppi spoiler, troppe anticipazioni, di che cosa parla la storia poi? Difficilissimo senza dare anticipazioni, perché non sono capace, però parla di un gruppo di commessi di questo supermercato aperto tutto il giorno, tutti i giorni, che rimangono ovviamente coinvolti in una aggressione da parte di mostri mutanti all'interno del supermercato, che è un argomento, un grande cliché cinematografico che ci tenevo a sviscerare per una volta, a dare la mia visione di questo grande classico, ecco. Tra tutti i personaggi all'interno del fumetto spicca ovviamente il protagonista, a cui tra l'altro è dato un nome abbastanza importante, no? Che è Dante. Che tipo di protagonista è? Allora, ci tenevo a dargli questo nome perché mi piaceva il contrasto tra il nome epico e il fatto che fondamentalmente fosse un po' uno sfigato. Volevo che fosse un eroe abbastanza tipico, mi piace scrivere di personaggi sempre molto poco eroici, che si ritrovano a compiere questi gesti in maniera più o meno involontaria. Volevo che fosse una persona comune, anzi più o meno un perdente. Una caratteristica che almeno io ritrovo all'interno dei tuoi fumetti è un po' una critica sociale più o meno nascosta, spesso rivolta a lavori che fanno i giovani ragazzi o le giovani ragazze, quindi da la cameriera prima, o il cassiere, che appunto la figura di Dante. Da dove viene questa spinta? Non so se è una cosa che ho notato io o se è effettivamente una tua ricerca poi. No, sì, effettivamente è una dinamica che tengo particolarmente a raccontare, perché credo che sia molto rappresentativa della mia generazione. In realtà io faccio parte di quella generazione nata nella prima parte degli anni 80 e quindi siamo cresciuti con delle aspettative di posto fisso, lavoro fisso, delle sicurezze che in realtà è molto difficile raggiungere al giorno d'oggi. E quindi, siccome poi tra l'altro io stessa arrivo molto tardi nel mondo del fumetto e mi sono ritrovata nel mondo dei lavori, passami il termine, normali, per praticamente tutta la mia vita, ci tengo a essere portavoce di questa realtà, di un po' la disperazione del voler avere una vita tra virgolette normale. Certo, che poi un po' anche, no, il discorso che fa Dante proprio all'interno del fumetto. Sì. C'è anche una colonna sonora non sempre esplicita all'interno di 24/7, ma visto che siamo appunto in una radio, quale sarebbe stata la canzone per accompagnare questo fumetto, o le canzoni? In realtà c'è tutta una playlist che io ascoltavo durante la realizzazione, che era un po' ispirata al film Gummo di Harmony Korine, che ha questi intramezzi super violenti di musica molto aggressiva all'interno di scene, magari per renderle un po' dissonanti, no? E quindi c'era tutta una playlist che ho ascoltato, che era essenzialmente brutal metal, non lo so, un po'.